sai, rimango sempre qua fino a quando lei non se ne va. Resto da solo, ma ne fumo una e scrivo questa qua. Ho scritto un pezzo trap, anche se non so come si fa. Un pezzo trap. Mi sono svegliato, ho scritto un pezzo trap. Davide non c'è, Davide non ce la fa. Davide! Davide dov'è? Davide è di là. Dice che adesso è cambiato il rap. Per fare successo devi fare trap. Ma io avrei fumato tutto anche se non esistevi te, non esisteva il rap. Avrei comunque voluto il cash. Avrei la stessa gente dietro di me. Tanta roba indipendente, scrivo quello che mi pare. Su quel podio arrivo primo, sì frate, niente male. Puoi fare i balletti che ti pare. Un disco così lo faccio in due settimane. C'ho qualche collana ma se me la levi rimango fresco gatto delle ne. Sono vero dalla testa ai piedi. Con i tuoi amici avete vite brevi. Lo sai, rimango sempre qua fino a quando lei non se ne va. Resto da solo, ma ne fumo una e scrivo questa qua. Ho scritto un pezzo trap, anche se non so come si fa. Un pezzo trap. Mi sono svegliato, ho scritto un pezzo trap. Giro a Pistoia con una pistola. Bang, bang, bang. Tutti per uno con una parola. Gang, gang, gang, storia Pamplona. Nel tuo locale ne vogliono ancora. Dammi una base e ti faccio la storia. Le rime che ho scritto le studio a una scuola. La musica scomoda, la facciamo qua. Se vuoi ne abbiamo a volontà. La gente fotografa, si passa da bro a fra. Sai cosa la droga fa? Si trova di tutto in qualunque regione. Tutto. Saluto il mio pusher ma non faccio il nome. Era solo qualche anno fa che arrivavo dalle Marche con zero soldi nelle tasche, ma con la testa ero su Marte. Molti dicono Dio non esiste, quindi dopo che c'è? Sto facendo un botto di interviste, ho meno tempo per me. Gli affari mica vanno sempre bene, ma ultimamente vanno a gonfie vele. Del tipo la gente mi ferma per strada e mi dice non fare la trap che non vende. Compro Gucci alla mia ragazza. Offre solo questo l'Italia. Lo sai, rimango sempre qua. Vieni. Fino a quando lei non se ne va. Resto da solo, ma ne fumo una e scrivo questa qua. Ho scritto un pezzo trap, anche se